All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. E ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Terza stagione, questa sera un consumé dei regini, facciamo una cosa così giusto per presentarci ai nuovi ascoltatori che ci stanno ascoltando, nuovi emittenti che trasmettono la cena dei regini, che hanno accettato di aderire a questa iniziativa. Iniziamo presentando la cena dei regini. Cos'è la cena dei regini? Vi state chiedendo adesso. Una volta a settimana organizzo questa cena in cui le persone vengono e portano del cibo da condividere e mangiare assieme, e quindi creiamo questo spazio in cui raccogliere il meglio dell'energia della città, quindi il meglio dei regini e della loro energia. Avremo tanti ospiti, nuova scenografia, nuovo background. Siamo nella sala nord dell'House of Bach, quindi col palco che ospiterà i nostri artisti e i nostri ospiti. E quindi chiunque può partecipare alla cena dei regini proponendosi, scrivendo a cena@bach.it per commentare la puntata oppure proporsi come ospite o anche come commensale, se magari sa cucinare bene, viene e porta il suo preziosissimo contributo culinario. L'House ospita comunque in continuazione eventi ogni settimana. Ad esempio, illustriamo adesso le ultime cose organizzate ultimamente. Innanzitutto la partenza della mostra Portals, la mostra d'arte permanente di arte visiva. Quindi abbiamo allestito questa mostra di là nella sala sud, in cui l'opera non è solo piazzata lì a stare ferma come cozza sullo scoglio, ho detto io, ma è un vero e proprio portale interattivo. C'è un codice su cui passare il vostro fidato smartphone per poter contattare direttamente l'autore dell'opera. È una cosa fantastica, quindi l'opera che diventa interattiva. Hanno aderito già tantissimi artisti, tra cui Davide Richetti, Francesca Donna e altri artisti anche da fuori Italia, che si stanno cimentando con questa nuova esperienza, e quindi sta raccogliendo diversi consensi. Ed è una cosa molto carina. L'abbiamo presentata domenica 18, che ha anche visto esibirsi sul palco dell'House i Del Negro. Hanno fatto un concerto bellissimo, un rock strumentale molto potente, molto calibrato, perché loro sono molto tecnici, insomma. Ed è stata una serata straordinaria con tutti i ragazzi che erano qui. Si sono dedicati, erano di là a smanettare con il loro smartphone sulle opere, a conoscere gli artisti, e di qua con la musica, eccetera. Cosa c'è di più bello di questo? Esatto, niente, assolutamente nulla. Esatto, niente. C'è il silenzio. Meglio di noi non c'è niente. Perfetto, voglio dire. Settimana prossima continuiamo con le iniziative. Continuiamo con la cena che avrà una tematica particolare, il buio. La cena al buio, ci si prenota online scrivendo, si partecipa in un'atmosfera soffusa particolare e si mangia bendati, quindi il contatto tattile con le mani, andare a capire che cos'è, andare a gustare e capire. Ricordiamo una gloriosa prima edizione in cui c'era, non mi ricordo chi, mangiava della verdura e disse: mi sembrano gamberetti. Mi ricordo chi era. Ma è bellissimo, perché vedete, tu con non avendo il contatto visivo sei portata a immaginare il meglio di quello che poi ti può aspettare, poi non sai cosa hanno portato gli altri, quindi comunque stai lì a cercare di capire, a gustare, e chiaramente la mente fa il resto. Ed è stata una serata bellissima. Mi sono divertito un sacco quando ho portato la marmellata ed eravamo tutti a piazzarci dentro le mani. È fantastico, esperienza da fare. Prenota di adesso alla cena al buio, perché veramente è insostituibile. Ci vuole un po' di marmellata di mandarini. Vedi, la nostra Andreina Scalpita già ha delle idee per... Assolutamente, non bisogna dire cosa si porta, perché deve essere una sorpresa. Deve essere una sorpresa, e quindi poi... No, non la porto, perché non la devo ancora fare. Chi lo sa, può essere, però può essere pure. E poi ragazzi, le altre iniziative settimanali: il Nerd Monday e la Jam Session. Lunedì Nerd Monday, dedicato da un lato alla proiezione del film e dall'altro ai giochi da tavolo, quindi una serata per giocare assieme intorno a un tavolo. E poi la Jam Session, storica ormai, quella originale, non suonerai in un sottoscala, non suonerai in un localino viziato del centro, ma nel vero palco dell'house alla grande, la Jam Session Original. Sono ore e ore di palco aperto ad artisti che si vogliono esibire, ogni arte, ogni stile, ogni genere, e si alternano su questo palco. Una serata veramente suggestiva che ha offerto spettacoli più o meno graditi e più o meno artistici, ad esempio un pollo musicale che cantò una serata, un pollo musicale che si trovò anche a cantare sul palco dell'Aus, e questo fa capire quanto è elastica l'iniziativa e quanto può essere Piena divertente. di Il pollo era finto surprese. per placare gli animi animalisti, Sì, era finto. ovviamente, era finto e cantava meglio di tante I polli veri. Abbiamo creato il pollocor. Ragazzi, noi torniamo tra poco dopo un po' di musica alla Cena dei Regini, terza stagione. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini, cena@back.it. Se vuoi commentare anche questo blocco e le notizie che andremo adesso a presentare, perché inizia il consueto angolo delle notizie, quelle più strane, quelle che non avresti mai letto, ma che noi ti propiniamo per fare perdere l'utile tempo alla tua vita. E adesso quindi partiamo da un evento che è successo proprio ultimamente, che abbiamo anche festeggiato all'Aus, il Blue Monday. Il Blue Monday cos'è? Secondo un calcolo matematico di questi americani pubblicato dalla BBC, il terzo lunedì del mese di gennaio sarà sempre il giorno più triste dell'anno. Secondo questo incastro di regole, si suol dire che sia così. Quando uno psicologo di nome Cliff Arnolds si è dedicato a calcolare quale fosse il giorno più triste dell'anno, è uscita questa data. Quindi, secondo tutto questo incastro di meteo, lavoro, post vacanze, eccetera, sarebbe quello passato. Quindi, noi abbiamo passato qua a vedere un film, anche abbastanza depressivo, perché bisogna comunque, come diceva Mantenerci Troisi, coerenti come quando Troisi, bisogna assecondare, bisogna soffrire bene, come diceva lui. questo pathos. Però solo oggi abbiamo scoperto che in realtà non esiste, è una trovata pubblicitaria di un canale satellitare che pensa un po' per vendere più viaggi all'estero, cioè più rilassamento, si era inventata questa storia del Blue Monday e l'aveva diffusa sul web. Quindi ragazzi, ogni giorno può essere felice, ogni giorno può essere triste, dipende da come lo si affronta. E io stavo per dirti io, dove li ho cominciato. Ecco. Quindi. E questo può essere. Eccoci Questo già può essere un modo per risollevare una lingua. un incontro importante, diciamo, con con un partner. Si può fare, bisogna, tutto dipende da come si impiega il proprio tempo. E lo sanno bene questi ragazzi di una web agency di New York, che per riempire le pause pranzo cosa hanno fatto? All'interno del loro ufficio, ogni pausa pranzo si sono messi a ricreare un famoso dipinto loro e l'hanno messo sul web, diventando delle star del web. Quindi hanno replicato i dipinti più famosi che potessero esistere in generale. Loro si chiamano Fools Do Art, quindi i pazzi che fanno l'arte, ma chiaramente con risultati veramente in alcuni casi osceni, però hanno avuto particolarmente successo, in particolare la loro Mona Lisa e questa riproduzione della ragazza con l'orecchino di perla, che è un giovane ragazzo riccamente barbuto che però si è sempre stato a interpretare la ragazza dell'orecchino di perla. Pensato. Un quadro che si potrebbe rappresentare, cioè quale vorreste far parte di un quadro? Un quadro. Guernica. La cena dei re di Vini, il cenacolo. E io qua. Fai Gesù Cristo! È un perché regalo. Oggi è un escalation di blasfemia? Perché spieghiamo, la cena è una parentesi all'interno di tutta una serata in cui comunque si ride, si scherza. E queste serate le ragazze sono particolarmente pepate, diciamo così. Mi sono partito qua. Oh sì, disinibito. E quindi comunque c'è una bella escalation di successi, diciamo, da questo punto di vista. Bizzarre. Ma a noi ci piace, quindi il cenacolo si può. Si può ricreare anche l'urlo di Munch. E comunque penso loro hanno scelto così di misurarsi con il loro tempo. Adesso l'ho chiuso, però comunque che c'è un orecchino di perla, è fantastico, vedere. L'hanno beccato anche barbuto, quindi... l'altro c'aveva i dread, quindi andiamo benissimo ragazzi. Il proprio tempo, come spenderlo? Sicuramente non si spende più leggendo. La lettura è in fortissima crisi. Due uomini su tre non aprono nemmeno un libro l'anno. Nemmeno un libro l'anno. Perché sono uomini? No, perché adesso te li danno in PDF. Perché sono uomini e dici la lettura non fa parte del nostro essere. Uomini devono giocare a calcio e giocare a calcio e guardare il calcio da TV. Ok, e quindi. Tu dici perché una volta c'era le riviste, adesso neanche quelle, si gioca e basta. Anche si servono le riviste. Un giorno capirai. Quindi comunque è calato ulteriormente la quota dei lettori, dal 2013 dal 46% siamo passati al 41,3%, grandissimo ribasso tra gli uomini, grandissimo ribasso al sud e sulle isole, dove comunque c'è una differenza veramente netta. Ad esempio l'ultimo libro che abbiamo letto. Il giapponese. Perfetto, ultimo libro. 1984. No, non molto dico, Nel 1984. Ah, ok. Quindi già abbiamo confermato molto questa. Lo dico perché lo Instagrammato. Lei deve andare a vedere il. Bello, bello veramente. L'altro veramente lo consiglio. Con calma. Tu Andrina, qual è l'ultimo libro che hai letto? Un libro che ti ricordi particolarmente. Un libro che hai letto. Cenerentola, quando era piccolo. Bellissimo. Cenerentola, Biancaneve. Che comunque. Da madre ce l'hai letta al tuo questa anche diciamo ferma la roba guardavo la televisione con lei cartoni animati. Penso, quindi già eri una madre moderna, per cui dire sei passata anche alla guardavo televisione. guardavo la Minù fantastico. No, comunque tranquillo perché passiamo alla prossima notizia. Qual è? L'incolore, Tazaki Tsukuri e i suoi anni di pellegrinaggio. Esattamente. Murakami Amaro. Murakami Haruki, già in pronuncia, comunque bellissimo, ve lo consiglio, Non sono la sua gente, però ve lo consiglio. E ragazzi, comunque, se la lettura va in ribasso, una cosa sta andando assolutamente a rialzo e non è quella che pensi tu. E non è quello, ragazzi, è la licenza. Tanto ormai questa sera proprio siamo degenerati. Stasera pochi ma buoni, siamo di meno del solito perché il consumo della vodka nel goigno. Però c'è un misto vodka birra. Non c'è pan, whisky. Non c'è pan e quindi non ci sono remore inibitorie riguardo il male, quindi non andrò come un treno, ragazzi. È grande aumento per impiegare il tempo, il 66% dei giovani lo fa e lo fa per 2 ore e mezza al giorno. Perché è sempre più simile a quello che sto pensando? Io sarebbe invece lo passa sul web, il che è internet. No. Se ti confondi è problematico. Tantissimi giovani passano tantissimo tempo sul web, tra i 18 e i 24 anni il 66% e addirittura tra i 25 e i 34 anni il 69%. Il 69% di la statistica. Cosa dire? Ragazzi, stasera sono ancora non siamo al bollino rosso. Io vorrei vedere come va a finire stasera, ragazzi. 69% delle persone passa parecchio tempo, più uomini che donne. Il 43% sono uomini che stanno sul web e gira. E anche gli anziani hanno un bel 23% comunque di frequentazione tra i 55 e i 74 anni. Per cui la nostra Andreina, che ormai è navigatissima del web, ha il suo sito, le sue cose, e quindi comunque dimostra questa. Ma a me non è che sono tanto per vedere, Mi guardavano la televisione, capione, per fare la staferma, perché era bizzarro. Ma con adesso è il contrario, ma con internet, cioè passi molto tempo sul web, su internet. Chi? Tu. Prima ci cercavo. Ci cercavo. Ma adesso no, perché non ce la faccio. C'ho due pulsanti, come faccio? Quindi si è armata di due controller, diciamo. E non è... Due pianoforti, via, come si chiama? Tastiere. Ragazzi, lei giustamente parla vintage. Sono due tastiere, e quindi non ti trovi benissimo. Però in generale ti piace l'idea di connetterti e di trovare le persone. Non c'è uno qui. Io mi metto lì e lavoro un po'. Guardatela, guardatela come subito, ragazzi. Lei è il 2.0, veramente la nostra dimostrazione, che voglio dire. Ciao. Ma perché la mia amica di la Patrizia, mi diceva sempre: ma perché non vai su internet? Mica ti metterei come tua sorella, però, ragazzi, non affrontiamo questi argomenti. Non con gesti. No, non devo iniziare. Andiamo avanti. Assolutamente no. Allora, noi andiamo avanti, però adesso c'è la notizia dal bollino rosso, quindi io vi invito a ricordarvi che questa è una trasmissione pubblica che andrà comunque su web, quindi un minimo di compostezza, ragazzi. Se vi facciamo una detta. Siamo sempre in detta. Bollino rosso, questo è l'angolo della notizia, quello un po' piccantella, quella che ti risveglia un attimo i sensi, che ti fa riflettere. È una notizia che farà riflettere parecchi uomini, perché c'è un terribile enigma in Italia, un enigma che non porta bene, tra l'altro, neanche a noi, e gli scienziati l'hanno definito il misterioso enigma dei peni italiani che si accorciano. Cosa? L'ho sentito anch'io. È già informata, attenzione. Spieghiamo cosa vuol dire una volta, perché i vostri nonni siete meno. Perché comunque si usa dire: non ci sono più gli uomini di una volta. E quindi dicono tutti così. comunque non ci sono più gli uomini di una volta, quindi il tempo prima si impiegava in maniera diversa. Invece pare che ultimamente proprio ci siano meno, diciamo, centimetri. Chiamiamoli possibilità, diciamo, da un punto di vista più intimo dell'uomo italiano. Incidono tantissime cose, incide questo studio portato avanti dal famoso professor Foresta, quella è poi il risultato finale. il dottor Forest, Carlo Forest, si è interessato. Non è il dottor Forest delle Iene lì dove. Allora, il dottor Forest mi si è interessato. All'argomento. Quindi già questo, il tizio che questo impiega la sua vita e le sue esperienze scientifiche su questo argomento ci deve preoccupare parecchio. Tra l'altro foresta, quindi estinzione, anche questa cosa può essere un legame molto particolare. Sto cercando di sviare dall'argomento principale. Non solo in giovani, ma pare che ci sia questa al di sotto dei cinquantenni ci sia questo calo, diciamo, di prestazionale, in cui incidono anche le c'è un calo prestazionale che intende anche quello e che comporta anche le cattive abitudini, tra quel diabete, il colesterolo e via dicendo. Quindi ragazzi, non ci sono più gli uomini di una volta. Lo confermi, Andreina? Cioè, nel senso, in un... Andreina mi sarebbe stato uno di una volta. quanta malizia. No, supera doc. Ma come si suol dire sempre, l'importante è saperlo usare. Ragazzi, commentate questa frizzantissima puntata della cena dei regini, cena@back.it, il nuovissimo sito, ilback.it/cena, se volete guardare tutte le puntate e visitarle, rivederle assieme a noi. No, ancora un piccolo spazio musicale, un saluto da il Back e dai ragazzi della cena dei regini, un applauso. Ciao.